Tempo di Sport con Carlo Genta. Schneider controlla un buon pallone, lo affida a Milito in area, Milito, Milito! Sempre Milito! Porta in vantaggio l'Inter al 34esimo del primo tempo con il 29esimo gol della sua stagione e vuol piangere di gioia tutta la curva dell'Inter in piedi per festeggiare un gol che può voler dire tantissimo! Eh sì, Diego Milito, oggi vogliamo ripercorrere tutta la cavalcata dell'Inter con questi racconti dalle telecronache ieri di Massimo Marianella e di altri colleghi di Sky, fino alla fine, fino a quest'ultimo atto. L'impressione è che Milano non sia ancora andata a dormire, domani negli uffici porterà in faccia i segni della gioia selvaggia della gente interista, che è arrivata in cima ad una montagna che sembrava inespugnabile, forse maledetta. A proposito di montagne difficili, poi vi racconteremo anche l'arrivo sullo Zoncolana al Giro d'Italia, ma intanto Inter, intanto festa, intanto brividi, perché le immagini della Coppa dei Campioni che sbuca da sotto passaggio di San Siro alle 6:30 del mattino davanti a 35.000, 40.000, 45, non so bene, non sono bravo con le stime, ma faceva impressione lo stesso. Con un cielo che albeggiava, emozioni forti, se ci sono emozioni forti nello sport. 800 24 00 24 per raccogliere le vostre voci. Tantissimi siete intervenuti la notte scorsa mentre vi raccontavamo la partita e il dopo partita. Vi ringrazio, vi aspetto ancora oggi pomeriggio naturalmente fino alle 19. Messaggi 349 238 6666. Chi non è ancora andato a dormire, ho l'impressione, è Giovanni Capuano, che dal Bernabeu ci ha raccontato la notte dell'Inter. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, hai azzeccato pienamente. Dormito pochino, niente. No, dormito pochino. Tra l'altro questa notte sono stato testimone all'aeroporto di Madrid della rincorsa dei tifosi a cercare di salire sui primi charter in partenza, perché man mano che arrivavano le notizie che la festa dell'Inter a San Siro, in un primo tempo programmata per le 4, stava via via scivolando verso l'alba, a centinaia, a migliaia hanno fatto davvero di tutto per essere su quei primi charter, per poi precipitarsi dalla Malpensa a San Siro e chiudere una giornata indimenticabile, vivendo un momento che io così a memoria onestamente non ricordo. No, nemmeno per le finali mondiali, nemmeno per le finali mondiali, io così tanta gente in giro non l'ho vista mai, nemmeno per l'Italia campione del mondo del 2006. No, ma poi l'apertura dello stadio, io ricordo che la prima apertura di San Siro, straordinaria, fu per il primo scudetto del Milan di Arrigo Sacchi. Il Milan giocava a Como e a sorpresa decise alla sera, in prima serata, di fare una festa, accorsero 80.000 tifosi del Milan, fu anche quello un momento indimenticabile. Da lì in poi ci sono stati altri episodi, anche l'Inter ultimamente ha festeggiato gli scudetti a San Siro con feste però abbastanza programmate e in orario civile, diciamo che entro mezzanotte si chiudeva tutto. Quello di ieri è stato veramente un movimento popolare, io non ricordo uno stadio aperto all'alba con tra l'altro dentro la gente dalle 2:30, sì, perché a quell'ora sono stati aperti i cancelli per aspettare una squadra che facesse un giro di campo, dicesse due cose e poi sfinita, come i tifosi del resto, andasse a dormire. Io credo che questo, ma l'hai detto benissimo tu, insomma, dia la misura del significato, al di là di quello sportivo, di quello che è accaduto ieri sera al Bernabeu. Giovanni, cosa c'è stato nel dopo partita di ieri? La partita l'abbiamo vista, abbiamo vissuto anche il dopo partita, abbiamo vissuto le parole di Moratti, di Mourinho, di Zanetti, di Milito soprattutto, che ha ritrattato, l'avete sentito anche prima nel giornale radio, al di là delle follie che poi sono successe a Torino, perché c'è anche la follia, no, in questi momenti, che ho l'impressione col calcio c'entri davvero nulla, di ciò che è successo, appunto quel fattaccio di cronaca di Torino, però Milito poi ha ritrattato, dice no, sue parole ce l'ho sull'agenzia, non so se ce l'abbiamo anche in audio, abbiamo diversi audio che poi vi faccio sentire. Comunque questa mattina, nel corso di quella festa all'alba, ha detto sicuramente resto all'Inter, ho 3 anni di contratto e sto benissimo qui. Però se aveva delle offerte ieri sera alle 11:30, ce l'avrà avuta anche questa mattina alle 6, o no? Sì, però, sì, certamente, però insomma io credo che probabilmente col passare delle ore si sia reso conto dell'assurdità della sua posizione così a caldo ieri sera. Del resto ne avevamo parlato, insomma, non tutti sono Mourinho, non tutti hanno un contratto che ha Mourinho con tutte le clausole del caso, e per quanto quanto Milito nelle ultime tre settimane abbia segnato 4 gol che sono valsi 3 trofei, e nemmeno tutti hanno il carattere, il peso specifico del tecnico portoghese. Cioè, già l'ambiente Inter dentro fa fatica a digerire il fatto che il portoghese abbia pronunciato un addio lungo un mese e di fatto l'abbia sancito e ufficializzato nei minuti che dovevano essere soltanto della festa, ma in questo momento riconosce a Mourinho sostanzialmente la possibilità di fare qualunque cosa. Probabilmente Milito, con il passare delle ore, si è reso conto che se mai dovesse aprirsi un discorso sul suo futuro non è certo questo il momento. C'è un contratto, certamente ci sarà un adeguamento da parte di Massimo Moratti, ma questo è nelle cose. Tra l'altro anche Maicon in queste ore ha detto di voler rimanere. Su Maicon anche oggi i giornali spagnoli e i siti riportano che è il primo della lista nelle richieste di Mourinho per il nuovo Real Madrid, e diciamo che è l'unico nome, tra l'altro, su cui un po' tutti convergono, perché poi, come al solito nell'ambiente madridista, c'è tanta confusione, perché ad esempio sui centrocampisti si spazia da Gerrard a De Rossi, sì, con offerte già formulate, insomma la solita marmellata, sì. alla madridista, che di solito produce molto a livello di spostamento di uomini e di capitali e poi non sempre altrettanto a livello di risultati. Sì, la mia impressione comunque è che, insomma, la squadra di ieri sera arrivata sul tetto d'Europa da domani sarà in discussione, da domani comincia il futuro, sarà un futuro diverso fatalmente per quanto riguarda l'allenatore, poi ne parliamo. Ma anche per quanto riguarda i giocatori, la mia impressione è che si possa trasformare, si debba trasformare questa specie di shock del rinnovamento di una squadra che ha appena vinto quello che ha vinto, in una grande occasione per ricostruire, perché in questo senso secondo me va inteso questo rinnovamento. Ci fermiamo un attimo, traffico, poi ritorniamo, facciamo altre 2 chiacchiere con Giovanni Capuano. Strade in diretta. A chi è in viaggio verso Genova segnaliamo code per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, e poi ancora per traffico altre code tra Albisola e Varazze e tra Arenzano e la 26 dei Trafori. C'è coda anche sulla 12 Genova Livorno in direzione Genova tra Chiavari e Nervi. Per lavori code sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze tra Vicarello e Lavoria e tra la diramazione per Pisa e Ponte di Raeste. Coda in smaltimento invece sulla 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e la Tisana verso Trieste come conseguenza di un cantiere da poco rimosso. Sulla 9 Lenate e Como Chiasso, code in direzione Svizzera tra Como Montelimpino e Chiasso per operazioni doganali, mentre in direzione Lainate si rallenta per traffico tra Origgio e la 8 Milano Varese. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica verso Bologna tra Faenza ed Imola. Prudenza infine per le piogge sparse sui percorsi del medio versante tirrenico nelle zone interne del centro e lungo il tratto appenninico dell'Autosole. Per ora è tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Visto che stavamo parlando di Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa è 2-0 e il principe diventa re nella notte di Madrid. Principe diventa re nella notte di Madrid, questo era il gol del 2-0, il gol della Champions League. Già che ci siamo e stavamo parlando di Milito, adesso prepariamo i file delle dichiarazioni di Milito sul campo quando la coppa era ancora sul tavolino e delle dichiarazioni di Milito all'alba a distanza di pochissime ore. Ma prima voglio chiedere a Giovanni Capuano com'è stato il dopo partita di ieri, quando le telecamere si sono spente, causa notte fonda. Io prima ho evaso la risposta. In realtà è stato un dopopartita lunghissimo già allo stadio Bernabeu, perché considera che la squadra di fatto se n'è andata, che era passata l'una di notte dallo stadio. Noi ci siamo lasciati con la diretta a mezzanotte, è stata una zona mista quella successiva in cui si sono sprecate le confessioni. Io non so se qualcuno l'ha riportato, l'ha fatto sentire o l'ha fatto vedere, ma ad esempio in zona mista intorno alla una c'è stato un Materazzi che ha detto tante cose su quello che ha significato Mourinho e su quello che sarà il gap che l'Inter dovrà colmare senza di lui, perché io da un giocatore professionista raramente ho sentito dire del suo allenatore che era stato capace di rendere un gruppo, tanti fratelli, disposti a giocare per lui anche un solo minuto ed essere felici. E tra l'altro Materazzi parlava di sé. E questa fondamentalmente è l'eredità pesante. Poi l'Inter ha lasciato il Bernabeu, ha fatto fatica a lasciare il Bernabeu perché le strade intorno erano ancora piene di tifosi festanti, di tifosi che raggiungevano i pullman, si muovevano verso l'aeroporto di Barajas, che si trova non molto distante dal Santiago Bernabeu, ma sempre lungo il famoso passeo della Castellana, che oramai da ieri pomeriggio abbiamo abbondantemente citato e ieri sera era un ingorgo come l'autostrada del sole durante l'esodo del primo agosto. Arrivata poco prima di arrivare all'aeroporto, l'Inter si è fermata per una veloce cena, velocissima, poi si è imbarcata e poi c'è stata la festa, che è stata fortemente voluta da Massimo Moratti, perché in situazioni normali sarebbe stato organizzato qualcosa oggi, probabilmente questa sera. In realtà c'è il problema dei giocatori che devono raggiungere le nazionali, molte si stanno già allenando, anche l'Italia, le nazionali sudamericane, c'è la necessità di concedere a questi giocatori, che entro domani alle 8 devono raggiungere i ritiri, di avere qualche ora per staccare, riposare, salutare la famiglia e poi andarsene per un mese e mezzo, due, ed è assolutamente normale. Questa è anche la risposta, insomma, a quanti hanno storto il naso, perché di fatto una festa a quell'ora comunque ha precluso la partecipazione di qualcuno. Però io credo che di più non potesse essere fatto. L'ha voluto Moratti e i giocatori sono stati ben contenti, perché poi quell'empatia di cui parlava Mourinho in realtà ha un po' coinvolto tutto il gruppo, e lo si è visto anche ieri sera in una serata di altissima tensione, in cui, io lo dico anche a costo di scontentare qualche tifoso dell'Inter, la partecipazione corale al Bernabeu durante la partita è stata sbilanciata nettamente a favore dei tifosi del Bayern. C'era una tensione nei 30.000 interisti arrivati a Madrid, che si è davvero sciolta soltanto in fondo. Ci sono stati lunghi momenti di silenzio, ma io penso che, come in campo una squadra possa far fatica a digerire la tensione di una partita di questo genere, quella fosse la fotografia di tutta la tensione emotiva che accompagnava la finale di ieri. Certo. Grazie Giovanni, buon riposo soprattutto. Grazie a te. Grazie a Giovanni Capuano. Ho già diversi messaggi a un ascoltatore, che è Stefano dalla provincia di Imperia, 800 24 00 24, nel momento degli ascoltatori, tra poco cominceremo a parlare con loro fino alle 19. Stefano, buonasera, buongiorno. Buonasera a lei. Buongiorno. Senti, io volevo fare una brevissima considerazione e chiedere un parere a lei. Io sono un tifoso dell'Inter, premetto, contentissimo, però sono rimasto molto meravigliato, come molti giornalisti, delle dichiarazioni che ha fatto Milito nel dopopartita, e ho pensato... un giocatore come lui, diciamo un po' diverso dal solito, nel senso che è arrivato a 30 anni, al successo pieno, tutto il resto, cioè che si è sempre dimostrato umile, insomma, sempre dato tutto sul campo, quindi soltanto da ringraziarlo, come gli può venire in mente, alla fine di una Coppa dei Campioni appena vinta, uscirsene fuori con dichiarazioni di questo tipo? Sì. Cioè onestamente sarebbe dovuto essere al settimo cielo per quello che ha fatto in questa settimana, essere nel pieno della gioia, ha subito pensato ritocchiamo l'ingaggio, così facciamo sentire che anche io conto. Cioè, a me mi sembra una roba assurda, non lo so. Anche a me un po', Stefano. Io userei una parola, che è questa: ingenuità. Secondo me è stato molto ingenuo Diego Milito in quell'occasione, o forse è stato eccessivamente sincero, non so, ma le due cose finiscono per confinare una con l'altra. Visto che ha citato quelle dichiarazioni, allora le sentiamo. Milito a bordo campo, con la Coppa ancora sul tavolino, non era ancora stata consegnata all'Inter, prima intervista rilasciata a Sky tra i giocatori dell'Inter, Milito. Veramente una gioia mai provata, incredibile, sono felicissimo veramente per l'Inter, perché ci tenevamo tanto a questo traguardo, per il presidente che lo merita, il primo a meritare questo trofeo. Siamo troppo felici, ovviamente, per una sensazione unica. Calcio sempre dalla revincita, lottato sempre, cercato di dare sempre il massimo, di imparare, anche se ho 30 anni. Io ringrazio all'Inter, al presidente, al mister per volermi l'estate scorso. Sono felice, poi il prossimo anno vediamo, ho delle offerte importanti, vediamo. Questo era Milito 1 a bordo campo. Milito 2 alla mattina, alle 6:30, dichiarazioni sempre ai microfoni di Sky. Questa gente merita tutta questa gioia. Siamo venuti qua per loro, per offrire la Coppa. Siamo veramente felici. Tu rimarrai sicuramente all'Inter? Speriamo, sì, sicuramente sì, perché ho 3 anni di contratto, sono felicissimo all'Inter. Quindi speriamo sì. Sembra un po' una goffa retromarcia eventualmente pilotata. Massimo Callegari, buonasera. Ciao, buonasera. Cosa ne pensi? Una lettura così sulle credenziali che si è creato il giocatore professionista è quella, come dicevo, dell'ingenuità, oppure ancora più approfondita, che quelle che non sanno fare comportarsi male quando hanno bisogno di chiedere qualcosa che sicuramente pensano di meritarlo, poi non sanno farlo nella maniera più furba, no? E sì, quindi si lasciano prendere e parlano in una maniera che sicuramente poi non è quella giusta. Però siamo in un mondo in cui il professionismo va oltre ogni sentimento. Mourinho di questo è l'esempio più alto al momento, e quindi tutto quello che è professionismo significa riuscire a ottenere il massimo possibile da ogni istante della propria carriera. Questo non giustifica le frasi di Milito, anche se poi la correzione, ripeto, per tutto quello che, per le credenziali di professionista che si è creato l'uomo in questi anni e in questa stagione, la correzione non credo sia stata tanto pilotata quanto anche spontanea, no? In quel momento lì, quando è entrato allo stadio, credo si sia reso conto che era tutto sbagliato, il momento e probabilmente anche la sostanza di quello, sì, che aveva detto. Sì. E quanto a Mourinho, Massimo, oggi Mario Sconcerti scrive: Mourinho ha inventato una specie di socialismo lussuoso dove, sì, tutti corrono per tutti e tengono per il conto finale la propria qualità. Non c'è stato nemmeno al Bernabeu un solo dribbling di troppo, la voglia di un preziosismo. Ognuno aveva un compito esatto, tutti avevano quello di aiutare il compagno più vicino. Questo socialismo lussuoso, secondo me, è il tratto comune di questa Inter, di questa grande squadra, con un'altra grande squadra di un passato non così remoto, cioè il primo Milan di Carlo Ancelotti, quello che sembrava impossibile, no? Sembrava utopistico, con Pirlo davanti alla difesa, con queste invenzioni sul centrocampo pieno di qualità. Ecco, quel Milan poi è un po' cambiato, però in quel Milan c'era questo stesso spirito, l'impressione. È vero, è altrettanto vero che questo tipo di definizione e di tipo di gioco è possibile solo quando la leadership dell'allenatore è totale, totalmente riconosciuta ed è totalmente valutata come onesta da parte dei giocatori, nel senso che non si è mai sentito in questi 2 anni, al di là di qualche decisione leggermente favorevole a Maicon Ibrahimovic rispetto a Balotelli, no? Per fare gli esempi più estremi, però raramente si è sentito dire Mourinho, come si diceva di Mancini invece, Mourinho sceglie perché quelli sono i suoi giocatori, quelli sono i suoi leader di riferimento. L'esempio più grande di questo è stato quando è tornato dalla Coppa d'Africa e Mourinho, che per un mese aveva detto spero per me che il Camerun esca prima possibile, ha detto qui non c'è tappeto rosso per nessuno, neanche per l'uomo che più di tutti ha portato poi la mentalità vincente, anche perché era l'unico che aveva vinto la Champions di questi qui. Ed è vero, e quello che tu dici rispetto al Milan è un parametro molto corretto anche per il futuro, nel senso che quel Milan poteva essere così perché c'era una qualità, una freschezza atletica che poi negli anni successivi è mancata e che c'era in questa Inter, ma siccome molti giocatori sono vicini ai 30, se non oltre, potrebbe essere poi quello che manca per riproporre questo modello, certo, di socialismo lussuoso nel futuro. Certo, è per quello che dico che questo girare pagina oggi un po' scioccante deve essere sfruttato come una grande occasione, secondo me, dall'Inter in questo momento particolare. Filippo, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho sentito da poco lì la dichiarazione lì di Milito, perché ieri sera io ero allo stadio. Sì. Ero a Madrid. Sì. E niente, sono stato sbalordito perché da, dalle 5 del pomeriggio, alle 5 e mezza che hanno aperto lo stadio, fino alla fine, i cori erano solo per Mourinho e per Milito. Il giocatore più acclamato proprio di tutti era solo Milito, quindi per me sentire una dichiarazione del genere è come un colpo al cuore. Sì, no, posso capire, si è sbagliato l'uscita. Da grande attaccante ha dovuto fare difensore, è entrato fuori tempo, nettamente fuori tempo, con rischio di cartellino rosso. Insomma, io non so come andrà, se Milito seguirà Mourinho al Real Madrid, se invece resterà con ritocco di ingaggio, non so come finirà questa storia. Certo è stata un'uscita intempestiva quella del grande attaccante dell'Inter, che è Milito. Non è casuale questo lapsus, perché sono le due facce principali di questa vittoria, caro Massimo. Oggi è il numero uno al mondo tra gli attaccanti. Sì, beh, poi come sai, io su di questo abbiamo parlato molto, no? E tu parlavi di Milito fuori classe già l'anno scorso e in precedenza. Io ero d'accordo sul concetto in potenza del giocatore, ma non ero del tutto convinto che potesse essere così determinante in questo modo in una grande squadra, per il fatto che aveva girato campionati importantissimi come Italia e Spagna, e anche quando aveva una quota di mercato abbassata da situazioni particolari, tipo la retrocessione a tavolino del Genoa, i grandi club non avevano investito su di lui. Poi è vero che ci sono molti esempi, soprattutto nel recente passato, di attaccanti che sono esplosi, però oggettivamente un giocatore che transita da un livello medio di squadra a un livello altissimo ed è così determinante alla prima edizione di Champions e segna con una continuità pazzesca, perché lui ha giocato tutte queste partite, ha segnato 30 gol, ma ha segnato solo due doppiette, una al Cagliari e una al Bayern. Per il resto vuol dire che ha segnato un gol per partita in 26 partite, 27, non so quale. Sì, impressionante, fuori misura, fuori misura. 800 24 00 24, numero verde. Massimo, un'ultima considerazione: c'è chi scrive un messaggio invece. Complimenti all'Inter, al suo presidente, ma la domanda è: quanta fortuna c'è in questa coppa vinta? Io credo più del normale, scrive Vincenzo, tifoso milanista. Più fortuna del normale non direi, anche perché se vogliamo guardare, l'Inter ha vinto una Coppa dei Campioni, non una Champions League, ha affrontato praticamente solo squadre campioni nei loro paesi fin dal primo girone, no? Barcellona, Dinamo Kiev, Rubin Kazan, se ricordo male, era l'unico girone della Champions dove c'erano tutte squadre con lo scudetto sul petto. Poi Chelsea, che ha appena vinto il titolo inglese, CSKA, Barcellona e Bayern. Sì, è vero, è verissimo. Poi credo, come abbiamo detto tante volte, no? L'espulsione di Materazzi a Liverpool è stata molto, molto severa. L'Inter aveva affrontato alcune situazioni tra Valencia e Liverpool stesso e anche Manchester con alcuni giocatori fondamentali non al top, quindi come avevamo concesso in quelle situazioni qualcosina come giustificazione, qui non possiamo dimenticare che c'è stata nel senso che l'Inter ha giocato contro il Chelsea senza Essien, che è un giocatore fondamentale per quella squadra andata e ritorno, il Barça senza Iniesta andata e ritorno, la nube che ha accompagnato il Barcellona in pullman a Milano. Gli episodi arbitrali sono tutti piccoli dettagli, come chiama Mourinho, che sono stati fondamentali nel quadro finale, insomma. Però noi abbiamo vinto il campionato del mondo anche con molti dettagli, ma per forza tutti vincono con qualcosa, con un vento che li spinge, guardate che sia un vento, insomma, che non è guidato. Certo. No, se non dagli altri. O dalle nubi vulcaniche, insomma. Grazie Massimo, un abbraccio. Grazie a voi, a presto. Grazie Massimo Callegari. Allora dobbiamo fermarci un attimo, poi diamo anche un'occhiata al Giro d'Italia, dove sullo Zoncolan credo si stia scrivendo cose importanti su questa corsa, con Ivan Sebasso all'attacco sulle pendici durissime dello Zoncolan. Ripeto il numero verde 800 24 00 24, vi aspetto dopo questa pausa. Risponde Noi per Voi. Parlate dopo il bip. Buongiorno, c'è un modo a norma di legge per conservare i documenti in formato digitale? Volevo dotarmi della firma digitale, ma da dove cominci? Per i commercialisti c'è l'obbligo della posta certificata. Ma esattamente che cosa vuol dire? Vai sul sito di Radio 24, entra nella sezione Noi per voi by InfoCert e mandaci le tue domande. La nuova Citroën C3 è l'unica 5 porte con la migliore abitabilità della sua categoria in meno di 4 metri e l'esclusivo parabrezza Zenith. Solo a maggio, su tutta la gamma Citroën C3, hai 2.000 euro di ecobonus e in più diesel e GPL allo stesso prezzo. Nuova Citroën C3, il Visio Drive. Ti aspettiamo! Ma c'era bisogno di salire fino a qui. L'anima tende al cielo. Il futuro ha bisogno di più anima. Per questo i migliori consulenti, le migliori banche e reti di promotori finanziari propongono i fondi comuni di Anima e ti offrono l'assistenza e la consulenza necessarie. Il valore a portata di mano. Anima, insieme per il valore. L'anima. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Disponibile presso la sede della società, i distributori e sul sito animasgr.it. Dunque, Roberto Bolle è... come posso dire? È un ballerino. Cioè, no, non solo. È un atleta, ma anche un artista, un attore. È difficile spiegare un talento, perché definirlo è limitarlo. Per questo è nato TNT, il Festival dei Giovani Talenti. Segnalaci una persona sotto i 35 anni che giudichi un talento. E se avrai ragione, tutti potranno conoscerlo a Roma dal 17 al 21 novembre 2010. Vai su festivaltnt.it e partecipa anche tu. Metti in mostra il tuo talento. Un evento del Ministro della Gioventù e dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Nella giornata di domani l'alta pressione continuerà a consolidarsi soprattutto sulle regioni del centro-nord, dove tra l'altro si verificherà un ulteriore aumento della temperatura, che in particolare sulla Valle Padana risulteranno nettamente superiori alle medie stagionali. Per quanto riguarda lo stato del cielo, una situazione di cielo sereno poco nuvoloso su gran parte delle regioni, soprattutto al nord e lungo il versante dell'Adriatico. Nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi, in particolare dall'Appennino fino alle regioni meridionali, la possibilità di qualche temporale isolato, soprattutto sul Lazio centrale e meridionale, tra la Basilicata e la Calabria, soprattutto nelle zone interne. In Sicilia si avranno degli annuvolamenti un pochino più densi, soprattutto nel settore meridionale dell'isola, anche qui con qualche precipitazione isolata. Le temperature, come detto, tenderanno ad aumentare un po' in tutte le regioni, i venti si manterranno deboli con mare di conseguenza calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. Per il meteo è tutto. Vicenza Oro Charm, la vetrina internazionale più seducente e affascinante di oreficeria e gioielleria, è a Vicenza dal 22 al 26 maggio. A Vicenza Oro Charm brillano i gioielli del Made in Italy. Oltre 1400 aziende presentano le collezioni estive e le anticipazioni delle tendenze del prossimo autunno-inverno. Per operatori, vicenzafiera.it. Sono l'antropologo Erminio Balladori, in uscita con i miei allievi per studiare dal vivo la tribù Linear. Professore! Dimmi, cara. Guardi questo oggetto tribale. È una polizza Linear. Ma si capisce tutto, è tutto chiaro e trasparente. Certo, vedi, questo è il rispetto praticato dalla tribù Linear. Rispetto della chiarezza, dei diritti dell'assicurato e del suo denaro. Pensa che con Linear puoi risparmiare fino al 40% sull'RC Auto. Incredibile! Chiama l'800-112233. Fonte libretto rosso 4. Ruote 2009. La tua azienda può avere grandi opportunità di crescita in Italia e all'estero, ma un imprenditore non può occuparsi di tutto. La migliore strategia per crescere? Dotarsi di un export specialist Comarc. Chiama Comarc 800-123-640. Centinaia di aziende di successo lo hanno già fatto. L'export specialist Comarc trova clienti, agenti, rivenditori e distributori in tutto il mondo e in pochi mesi svilupperà il tuo business al tuo fianco. Comarc 800-123-640. Comarc ti fa crescere. www.aziendedisuccesso.it. Uno dei grandi misteri dell'antichità è legato al culto di Icaro. I suoi seguaci, detti Icarini, lo veneravano come un dio e nei loro riti ne rievocavano il famoso volo. In queste cerimonie si lanciavano da una rupe con grandi ali di terracotta, di cui purtroppo non ci è arrivato integro neanche un esemplare. Morale? Meglio stare coi piedi per terra. Trazione integrale motore boxer. Tecnologia esclusiva Subaru. Nuova Subaru Legacy. Un'autentica calamita da 26.400 euro. Oggi anche in versione berlina. Negli showroom Subaru anche sabato. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreforma.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. A tempo di sport. Lampard regala letteralmente il pallone all'Inter, che lo gioca su Milito. Schneider, Eto'o, così sarà di posizione regolare, Eto'o! Samuel Eto'o ancora una volta in Europa, Samuel Eto'o nella stessa porta in cui con il Barcellona, con la maglia del Barça, aveva messo in ginocchio il Chelsea, ma a festeggiare con i tifosi dell'Inter un altro gol che può voler dire quarti di finale. E questo era Inter Chelsea, li facciamo sentire tutti, o quasi, uno per partita, insomma, su questa Road to Champions League che l'Inter ha percorso, incontrando, lo ricordo, tutte squadre campioni dei rispettivi paesi, salvo il CSKA di Mosca, che ha poi trovato nei quarti di finale. Tutte le altre, fin dal primo girone, erano da Coppa dei Campioni, insomma. Maurizio, provincia di Bari, buongiorno. Sì, salve a tutti. Detto con vostro collega già delle fortunate similitudini con Mondiale vinto, volevo insomma concentrarmi sull'aspetto tecnico della finale che ha visto prevalere la compagine nerazzurra, sì, su degli avversari che a me sono sembrati francamente scarsi, nel senso che posso dire una cosa da questo punto di vista, però. Maurizio, una delle grandi qualità di questa Inter, che deriva da, credo, dallo studio, dal lavoro maniacale di Mourinho, allenatore che io personalmente penso insopportabile oltre i 2, massimo 3 anni, perché è uno che ti chiede l'anima, non gli bastano le gambe, i muscoli, il cuore, eccetera, ti chiede l'anima. Una delle grandi qualità di questa Inter è stata quella di sminuire sul campo gli avversari. Tutti dopo queste partite abbiamo detto, beh, ma alla fine il Bayern Monaco è tutto qui, ma alla fine il Barcellona che non riesce a fare un gol, sembra una macchina perfetta, non riesce a fare un gol a Barcellona con l'Inter in 10, è tutto qui. Il Chelsea nella partita di Londra è tutto qui. L'abbiamo detto ogni volta, ad ogni passaggio, Infatti vorrei fare appunto due domande. La prima è proprio su questo, cioè visto che l'Inter ha giocato con Chelsea, con Barcellona e anche la finale nella stessa maniera, sì, cioè più o meno avvocati nella propria metà campo e poi gioco in contropiede, sì, per batterla in futuro non si potrebbe adottare la stessa tattica al contrario, cioè costringere l'Inter ad attaccare e vedere come va? Il problema è capire quale Inter sarà in futuro, che non sarà questa. Inter è finita ieri sera, Ecco, a proposito di questo c'è una seconda domanda. Prego. Non si potrebbe replicare la mossa fortunata di mercato che ha visto privarsi di Ibrahimovic, ovvero sia a questo punto cedere Milito che ha più di 30 anni e con quei soldi far arrivare insieme a Mihajlovic un Maxi Lopez che non ha sfigurato quest'anno e poi fare il resto del mercato? Ma può essere un'idea certamente, perché come dicevo prima, se si deve voltare pagina è meglio farlo completamente senza legami con il passato e sfruttare questa occasione, cioè trasformare questo piccolo shock in un'occasione, no? Quanto ai due nomi che lei ha fatto, io sono molto molto molto molto perplesso, cioè non credo che Mihajlovic possa essere oggi un allenatore da Inter, perché pare che Mourinho ieri sera abbia detto all'Inter serve un allenatore top, e condivido pienamente, perché io non ripartirei nemmeno dalla ricerca di un clone di Mourinho, di un allenatore con le stesse caratteristiche, anche perché probabilmente non c'è. Però io credo che questa Inter debba ripartire da un allenatore che conosce le strade per arrivare in alto in Europa. I nomi sono pochissimi e sono stati fatti tutti: Capello, Benitez, Hiddink, Guardiola. La rosa è ristrettissima, però io ripartirei da un allenatore top. Credo che Mihajlovic in questo momento possa essere un grande, grande azzardo. Carlo Latina, buonasera. Pronto? Pronto. Ah, buonasera. Buonasera a lei. Senta, volevo sapere il suo parere circa l'atteggiamento di alcuni giocatori dell'Inter ieri sera, tipo Eto'o, Montari, Stankovic, che a partita finita si sono messi addosso la loro bandiera nazionale. Diaz, che io così giudico piuttosto inopportuni, in fondo militano in una squadra italiana, sarebbe stato più giustificato se si fossero messi addosso la bandiera italiana e non quella della propria nazione. Mi pare che sia una caduta di stile piuttosto pesante. Lei cosa ne pensa? Ma in fondo mi sembrano dettagli anche perché sono giocatori simbolo nel loro paese, cioè Eto'o è il simbolo dello sport nel suo paese. Lo stesso vale per Stankovic e per gli altri. È una vittoria loro, dell'Inter, è una vittoria in cui ci può essere anche questo spirito di coinvolgere il paese di appartenenza. Non lo trovo né volgare né inelegante. Mi è piaciuta meno quella discutibile maglietta di Materazzi alla fine, perché non era modo, tempo, situazione, eccetera. Ma di quello si è parlato in maniera spropositata anche ieri sera a caldo. L'argomento dell'Inter che stava per festeggiare la Champions League, l'argomento della maglietta di Materazzi, inspiegabilmente. Quanto alla bandiera del proprio paese, non credo. Insomma, non starei nemmeno tanto qui a dire l'Inter squadra tutta di stranieri, mi sembrano abbastanza bagianate. L'Inter è una grande squadra di calcio moderna, di questi anni, contemporanea, in cui ci sono giocatori che arrivano da paesi diversi per scelta, per caratteristiche, per ragioni loro, ma non starei a distinguere tra non starei a fare questioni sui passaporti, sulla città sullo stato di provenienza, questo no. Marco, Napoli, buonasera. Buonasera, salve. Senta, io mi dichiaro subito, sono un tifoso juventino. Sì. Quindi puoi immaginare che problema c'è. Stia rosicando, diciamo, in maniera veramente disumana. Però un'altra cosa che voglio chiedere, voglio avere un confronto con lei su questo. Come dicevo ieri sera, come ho sempre detto, ci sta anche fare il tifo per il Bayern, perché è calcio, così come ci sta da laziali fare il tifo per il... stanno tutte queste cose, perché il calcio è anche questo. Però mi pare che in maniera trasversale l'Inter abbia raccolto ammirazione da parte dei tifosi di altre squadre. Cioè, non ho sentito nessuno dire che l'Inter non è una grande squadra. Quindi il rispetto per le grandi squadre c'è da parte di tutti, quelli che sono sportivi veri, o no? No, io non sono veramente d'accordo, devo dire la verità. Volevo parlare proprio di questo. Sì. Io noto, mi viene la parola, caggeria. Il Milan ha vinto una Coppa dei Campioni bellissima, e un'altra fortunata, sì, facendo delle partite meravigliose con Kakà, che ha fatto la storia del calcio. Sì. Come vedete, non sto parlando neanche della Juve, sì, che comunque non ho mai visto tanto entusiasmo presso i giornalisti e in televisione come per questa vittoria dell'Inter, e non riesco a spiegarmi il perché. Ripeto, non voglio parlare della Juve, ma il Milan ha scritto la storia del calcio in questi anni. Sì. Non ho mai visto un decimo dell'entusiasmo mediatico che infatti le volevo chiedere se per caso anche lei è inserito, cioè vedo proprio uno spropositato entusiasmo. Ma guardi, non so se quanti anni aveva lei nell'87-88 quando il Milan riportò in Italia la Coppa dei Campioni che mancava da un sacco di tempo. Vabbè, ne avevo sotto i 30, insomma, non ero un bambino. Non ero un bambino, quindi si ricorderà che quell'entusiasmo mi sembra fosse lo stesso di oggi. Squadre con caratteristiche diverse. A me piaceva più quel Milan da veder giocare, però dal punto di vista strettamente estetico mi piaceva di più quel Milan. Erano tempi diversi, eccetera, però l'entusiasmo mi pare fosse lo stesso. A Milano, presso i media, presso chiunque, l'entusiasmo era quello. L'Inter non vinceva la Coppa dei Campioni da 45 anni, e sappiamo le vicende che ha attraversato questa squadra e che Zanetti potrebbe raccontare una per una, no? Zanetti o Moratti, quelli che hanno vissuto appunto l'Inter delle barzellette, l'Inter dei motorini, l'Inter degli insulti, l'Inter del 5 maggio. Insomma, è un po' un romanzo di questo tipo, e in questo io colgo questo entusiasmo, questa ammirazione per una squadra che alla fine, dopo tutti questi passaggi, ce l'ha fatta. Traffico. Pubblicità. Esci dalla crisi, entra in Che Banca. Conto Deposito ti dà il 2,50% sulle somme depositate per un anno e hai gli interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 30 giugno 2010. Fogli informativi su chebanca.it. Che Banca. la banca per tutti del gruppo Mediobanca. Scopri i vantaggi di Elementare Citroën. Ti aspettiamo sabato 22 e domenica 23 in tutte le concessionarie Citroën. Vi presenta Strade in diretta. Sull'autosole 3 km di coda tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna per un tamponamento tra due auto all'interno della galleria Croci. Per traffico, codi a tratti sulla 14 Adriatica verso Bologna tra Faenza ed Imola. In Liguria, traffico intenso verso Genova, si incontrano code sulla 10 Genova 20 miglia tra Albenga e Spotorno, tra Albisola e Varazze e poi ancora tra Arenzano e la 26 dei Trafori. Code anche sulla 12 Genova Livorno in direzione Genova tra Chiavari e Nervi. Per lavori si incontrano code sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze tra Vicarello e Lavoria e tra la diramazione per Pisa e Ponte di Reste. In smaltimento le code sulla 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e la Tisana in direzione Trieste come conseguenza di un cantiere rimosso. Sulla 9 Lenate Como Chiasso c'è coda in direzione della Svizzera tra Como, Montelimpino e Chiasso per operazioni doganali. Infine è difficile spostarsi oggi a Palermo, dove la città ricorda l'anniversario della strage di Capaci. Da poco è terminato davanti all'albero Falcone un corteo di circa 10.000 persone. Ed è tutto, appuntamento più tardi. A tempo di sport. Snyder, parte di nuovo l'Inter, c'è sempre due a sinistra, è un po' scoperto il CSKA, Snyder dentro per Milito, Milito, Milito! È il principe Milito! 1-0, sblocca l'Inter! Gran gol di Milito, ancora nato da una percussione di Snyder che trova il centravanti, che si stacca dai due centrali, qui non dà tempo agli avversari di chiudere, si sposta la palla e calcia con una velocità incredibile, niente da fare per Hakim Fayyab. Questa era l'andata dei quarti con il CSKA di Mosca. Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera, ciao Fabio. Buongiorno, buonasera, anzi buonasera a tutti. Snyder, Milito, Milito, Snyder, sembra quasi un ritornello, uno scioglilingua, no? È quello che ha portato, è il ritornello che ha portato la Coppa dei Campioni alle 6:30 di questa mattina a San Siro pieno di gente. Sì, beh, credo che quando un giocatore segna 30 gol in una stagione, 6 in Champions League, 2 nella finale, insomma ci si può solo inchinare di fronte alla sua bravura. Fabio, pochi conoscono l'ambiente dell'Inter come te, vorrei sapere una tua valutazione su quelle parole di Milito subito dopo la vittoria, poi ritrattate nella nota, l'abbiamo sentito prima ancora, ingenuità, inesperienza, eccessiva sincerità, cosa c'è in quelle parole? Ma forse un po' tutto questo che hai detto, di certo non ha fatto una bella figura e forse anche per questo poi si è riflettuto un po' sull'aereo e ha cambiato versione, insomma. Ecco, mi pare che qualcuno dell'Inter ha fatto molto, a cominciare dall'allenatore, per sciupare questo momento, e però la vittoria è stata talmente importante che probabilmente si passa soprattutto. Dicevo prima, trasformare questo piccolo shock di un rinnovamento necessario in una grande occasione per ricostruire, come la vedi come idea? Sì, no, l'idea è buona, credo che l'Inter sia un po' al confine, perché la squadra non mi sembra che sia alla fine di un ciclo, francamente. Quest'anno c'è già stato un rinnovamento pesante, sono arrivati 6 giocatori, l'ultimo è stato Pander, che è sicuramente un giocatore con un grande avvenire, ci sono giovani molto importanti, a cominciare da Balotelli, che mi auguro non vada via nell'interesse dell'Inter e forse anche suo. E quindi si tratta di individuare bene la strada da percorrere, tra la necessità di rinnovare, però anche quella di mantenere la squadra al massimo della competitività e non comunque distruggere un gruppo che ha dimostrato di essere veramente un gruppo inossidabile, capace di ripescare persino un campionato che a un certo punto sembrava perso. Non sono, dicevo prima, non sono così convinto di questa idea Mihajlovic che circola con sempre maggiore insistenza. Tu come la vedi su questo? Credo che nemmeno il presidente sia del tutto convinto e non ci abbia ancora pensato in maniera concreta. Ci sono tante idee, i nomi sono quelli che sono stati fatti, non credo Benitez, ma più o meno gli altri nomi sono questi. Cioè Capello? Guardiola, Capello, anche se c'è qualche dubbio, intanto perché è impegnatissimo con la nazionale inglese, poi sì, perché c'erano già stati 2 tentativi di prenderlo, non erano andati in porto. E poi certo Mihajlovic sarebbe la soluzione più semplice, però io credo che bisognerebbe guardare con molta attenzione al nome di Guardiola, perché arriva un nuovo presidente al Barcellona, sì. lui era molto legato alla porta, un po' meno a questo, e credo che poi lui, che c'è stato, che ha giocato in Italia, sarebbe ben contento di tornare da allenatore. Sai che ho anche io questa idea? Ho anche io l'idea che la pista Guardiola debba essere seguita con attenzione, anche perché sarebbe in questo momento, per mille motivi, l'allenatore perfetto. Un'altra impressione che ho è che Massimo Moratti, la cui foto finalmente per la gioia di Mourinho andrà appesa a quel muro, no? Con la Coppa dei Campioni in mano accanto a quella di suo padre. Massimo Moratti si è cresciuto anche lui con questa Inter. Ho l'impressione che ora possa diventare il punto centrale di questa ricostruzione, possa essere davvero possa cominciare ad essere un grandissimo presidente, non più solo un presidente con moltissimi soldi da spendere. No, ma io credo che le vittorie nel calcio e nello sport in generale siano essenziali, non solo per una questione di albodore e di prestigio, ma perché ti aiutano a vedere le cose con più lucidità, vederle nel modo giusto, con ottimismo, ed è per questo che è importantissimo vincere. Credo che non ci sia niente più delle sconfitte che ti aiuta non tanto a vedere tutto nero, ma proprio a sbagliare le mosse per la fretta, magari di fare delle cose perché pensi che quello sia la strada giusta, smonti una squadra, poi la rimonti. E la forza dell'Inter è stata in questi anni quella, una volta trovata la strada delle vittorie per motivi che conosciamo tutti, perché è stato smontato un certo teorema che comunque esisteva, anche se adesso poi dopo si vuole cambiare un po' la realtà dei fatti, insomma. Ecco, queste vittorie sono servite per essere più lucidi, più diretti, più immediati, per capire bene che cosa serve, per tenere vivo il gruppo, innovando sempre, inserendo sempre quelle due o tre pedine fondamentali per migliorare il gruppo. Questa è stata un'estate molto particolare in cui l'Inter ha cambiato faccia, però la base è rimasta quella. Insomma, anche chi è arrivato, sono arrivati sei giocatori, si sono trovati in fretta bene. Insomma. Fabio, per chiudere, io credo sia giusto che Mourinho vada via, non solo perché arrivato così in alto non puoi che fare qualche gradino verso il basso, come è successo quest'anno con Guardiola, non solo per questo. Credo sia giusto che vada via perché, come dicevo prima, è un allenatore che non si accontenta dei tuoi muscoli, del tuo cuore, ma ti chiede l'anima. Non penso che sia un allenatore in grado di resistere più di 2-3 anni in una squadra e con un gruppo di giocatori. No, io credo che lui il terzo anno avrebbe dovuto farlo, e anche perché non è vero che la storia finisce qui. Vincere una seconda Champions League sarebbe stata un'impresa comunque importante, anche se lui non piace Supercoppa e Coppa Intercontinentale, sono comunque traguardi prestigiosi. Nulla impedisce di pensare che può non arrivare la tripletta, ma che comunque con una squadra competitiva si può vincere molto anche l'anno prossimo. Ecco. Mi sembra che invece lui ha trovato questa soluzione abbastanza di comodo, forse perché l'Italia veramente gli sta stretta, ma poi vedremo come andrà in Spagna. Io credo che mancherà a Mourinho questo terzo anno all'Inter, che avrebbe potuto veramente chiudere un ciclo, però mi dà l'idea comunque di un ciclo rimasto un po' incompiuto. Grazie Fabio, a presto, un abbraccio, buon lavoro. Subito al Giro d'Italia, Piero Augusto Stagi. Vittoria di Ivan Bassona, veramente una grandissima vittoria, 4 anni di attesa per rivedere Ivan Basso braccia al cielo al Giro d'Italia, l'ultima volta con la foto del suo bimbo appena nato, Santiago, alla Aprica, dopo la tappa del Mortirolo. Oggi Ivan Basso ha veramente cercato in tutti i modi di rientrare nei giochi, di ritornare verso la maglia rosa, e ha ingaggiato un duello bellissimo col campione del mondo Cade Evans, che non è ancora giunto sul traguardo e sta arrivando adesso con oltre un minuto probabilmente di ritardo, il minuto adesso, quindi un minuto abbondante di ritardo da Ivan Basso. Una gara stupenda, condotta in maniera esemplare dagli uomini della Liquigas, che sono stati impeccabili, hanno cominciato a menare la danza a 84 km dal traguardo, tutta la squadra in testa per i loro capitani, tanto in ritardo, è 1:20 in ritardo in questo momento, arriva Cade Levans, 1:20, terzo Michele Scarponi che raggiunge in questo momento a 1:31, terzo Michele Scarponi, una gara veramente molto bella, stavo dicendo, condotta in maniera tattica, in maniera perfetta dai Liquigas, che hanno voluto, fortemente voluto rientrare nei giochi. Adesso bisogna vedere se Arroyo, molto probabilmente Arroyo, la maglia rosa, terrà anche questa sera la maglia, perché dovrebbe perdere 7 minuti ed è praticamente quasi impossibile, però con la tappa di oggi c'è stata veramente una grande spallata da parte di Ivan Basse e Cade Levans, e credo che martedì con la cronometro di Plan de Corones e poi il gran finale, ricordiamo che ci sono ancora l'arrivo di Peio, c'è ancora il Gavia, c'è ancora il Mortirolo. E beh, signori, c'è ancora tantissima montagna, questo è un Giro d'Italia, veramente il Giro d'Italia, la gara più dura al mondo. Tour de France è la più famosa, ma le salite che ha il Giro d'Italia non le ha nessuna gara al mondo. Senti, Pier Augusto, Carlo, devo dire che la maglia rosa spetta di diritto, come l'anno scorso. Noi abbiamo così mosso molte critiche al gran patrono Angelo Zamenian, quest'anno la maglia rosa va data sicuramente al numero uno del Giro, perché quest'anno ha fatto marcia indietro e ha messo lì tutti i simboli, tutti i santuari di pietra più belli del ciclismo mondiale. Hai ragione, Pier Augusto. Adesso lasciamo arrivare la tappa, aspettiamo Arroyo sul traguardo, poi rifacciamo i conti tra un po' sulla classifica generale, sulle prospettive che si aprono, mentre in questo momento mi sembra arrivi Nibali con 3 minuti e 8 secondi di distacco dal suo compagno di squadra e capitano Ivan Basso. Grazie per Augusto Stagi, più tardi GR, poi di nuovo qui ancora un'ora insieme, 800 24 00 24 per le vostre telefonate. A tempo di sport. Si può battere, prova Snyder, rete Snyder, leader in vantaggio. Eh sì, qui era buona la mia prima idea che calciava Snyder, anche se di destro, è riuscita a trovare, credo, un passaggio attraverso la barriera. Mi sa che la palla è passata in mezzo alla barriera, per il portiere è stato difficilissimo vederla in tempo per intervenire. E questo era il gol segnato da Snyder a Mosca, che ha consegnato all'Inter la semifinale, che ha consegnato all'Inter il Barcellona. Io torno invece agli ascoltatori, più tardi Giro d'Italia e Moto Mondiale, ma adesso vorrei continuare su questi argomenti per proseguire nelle emozioni vissute fino ad ora, perché Milano non è ancora andato a dormire, ve lo assicuro. 800 24 00 24 numero verde, ricordo la vittoria di Basso nella tappa, una delle tappe più belle sullo Zoncolan. Vi ricordo la classifica generale che porta Basso al terzo posto alle spalle di Arroyo, che conserva la maglia, e di Porte, quindi il primo tra i big nella nuova classifica. Stefano da Bologna, buongiorno. Sì, ciao e complimenti. Grazie. Una cosa veloce, anche se le considerazioni sarebbero svariate. Chiamo solo ora, anche se vi ascolto sempre, perché l'ho vista poco l'Inter. Io sono tifoso milanista, riconosco l'onore, una gran vittoria, poi una tripla non è mai capitato, quindi figuriamoci. Esatto. Una cosa continuo a dire, le poche volte che l'ho visto, fra cui ieri sera, per me l'Inter non ha un bel gioco. Non ha? Non ha un bel gioco, ha un gioco all'italiana, catenaccio, tutti dietro la metà campo, palla avanti e San Milito che fa sempre gol. Ma non è io non vedo una squadra, ripeto, sono Milan, sono di parte, ma posso dire Milan, posso dire Barcellona, potrei dire Manchester, potrei dire anche la Juventus, non è una squadra che impone il proprio gioco. Ma non è una squadra che entra in campo e detta la sua legge. Il Milan di Sacchi ha fatto una rivoluzione, perché andava all'estero e dominava le partite. Sì. Questa gioca di rimessa, ha dei gran giocatori, ma a me sinceramente Mourinho, un grande allenatore, non sembra, un gran motivatore, un grande gestore di spogliatoio probabilmente, ma non mi sembra un grande allenatore. Ma che secondo poi me è un grande massimo, allenatore. Abbia ottenuto il massimo con quello bisogna, che aveva, va bene. Stefano, però bisogna anche intenderci. È un gioco triste. Ma insomma, bisogna anche intenderci su come intendiamo il gioco bello, il gioco triste, il gioco allegro. Bisogna anche intenderci. È chiaro che da un punto di vista strettamente estetico, vedere il Barcellona può essere più divertente che vedere l'Inter, ma da un punto di vista strettamente estetico, secondo me l'Inter gioca un gran calcio dal punto di vista organizzativo. Il calcio di oggi è anche e anche tattica occupazione degli spazi, verticalizzazioni. Insomma, a me sembra che l'Inter sia una grande squadra. Se poi vogliamo dire che ci sono squadre più divertenti da vedere giocare, facciamolo pure. Però, da un punto di vista calcistico, l'Inter è una grande squadra. Su Catenaccio non sono neanche d'accordo, perché Catenaccio è quando ti chiudi nell'area, il tuo portiere fa 15 parate miracolose, pali traverse, eccetera. L'Inter, con l'organizzazione, è andata a far piccolo il Barcellona sul suo campo, è andata a disinnescare il Chelsea a Londra, giocando pure, secondo me, una gran partita anche dal punto di vista estetico. L'andata con il Barcellona era stata una gran partita, dobbiamo intenderci, insomma. Secondo me l'Inter è una grandissima squadra moderna, questo io penso. Luca da Torino, salve. Sì, buonasera dottor Genta, grazie dell'opportunità, grazie. E complimenti per la professionalità. Sì, io ancora penso appunto a Sneijder e mi viene in mente che il giorno dopo di Dinamo, Kiev e Inter io ho pensato in silenzio, ho detto questo può essere l'anno così, insomma, un anno proficuo, sì. Certo, così non me lo immaginavo. Poi certo esteticamente uno può essere contento, però ecco, se devo essere sincero, la squadra che mi diverte di più è l'Arsenal. Ma sì, ma vuol dire l'Arsenal, però, o il Manchester United certi giorni, o il Barcellona quasi sempre, ma non stiamo parlando di divertimento, stiamo parlando di organizzazione, di risultati, di calcio anche da un punto di vista tecnico e tattico. L'Inter è una gran squadra di pallone, secondo me. Poi voglio dire, non sarà spettacolare come il Brasile di Pelé, però intendiamoci. Questa è una squadra che, come ripeto, è andata ad eliminare tutte le squadre più forti d'Europa. Non può essere un caso, non può essere neanche il trionfo del Catenaccio. L'Inter è una squadra che gioca in questa maniera e Mourinho è stato bravissimo nel costruire questo impianto che è estremamente moderno, tutto qui. Poi concludo velocissimamente e voglio pensare così, non voglio essere sfiorare il sacro, pensare che i due passaggi a Milito li abbiano dati l'avvocato Pisco e Giancito Facchetti, ecco. Questo è un pensiero un po' così, però. Sì, è un pensiero un po' romantico. In realtà quei passaggi li hanno dati Sneijder, ha detto che sono due giocatori straordinari. A proposito di Inter che non gioca bene a pallone, secondo me l'azione del primo gol è stata semplicemente fantastica, no? In verticale, con quella palla che arriva lunga, quel triangolo tra Milito che propone e subito scatta verso la porta, Sneijder che dà la palla con il bisturi e Milito che segna con quella hesitation che lo rende oggi il più grande attaccante del mondo. Al di là del romanticismo, questo secondo me è gran calcio, secondo me. Traffico. Strade in diretta. Sull'autosole 3 km di coda tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna per un tamponamento tra due auto all'interno della galleria Croci. Per un veicolo in fiamme più a nord 3 km anche tra l'allacciamento A15 della Cisa e Fidenza in direzione di Milano. Si viaggia momentaneamente su una corsia. Altrove aumentano gli spostamenti a causa dei rientri di queste ore dalle località di villeggiatura, specie in Liguria sulla A10 in direzione di Genova, con code tra Albenga e Spotorno, tra Albisola e Varazze e tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 dei trafori. Code anche sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova, tra Chiavari e Genova-Nervi. Per lavori 4 km sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Firenze, tra Vicarello e Lavoria e tra la diramazione per Pisa e Ponte della Est. Rallentamenti per un cantiere tra Desenzano e Brescia Est, sulla A4 in direzione di Milano. Infine prudenza tra Lazio e Abruzzo per i forti temporali in atto che possono ridurre la visibilità. Con questo è tutto, torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Il cross è basso, pallone agganciato da Milito, lo gira, attenzione, Sneijder, rete, il gol dell'Inter, Sneijder. Secondo voi questa non è stata una grande partita? Milito può entrare in area di rigore, è costretto ad allargarsi, arriva rimorchio Michael, pallone per Michael, rete, Michael fa impazzire Sassino. In area di rigore, il cross, Sneijder, Milito, rete. che questa non è stata una grande partita, anche dal punto di vista estetico, non lo so, se vogliamo dire che l'Inter gioca male io non ci sto, anche perché quest'anno ha fatto tante partite di alto livello qualitativo, secondo me, il calcio non è soltanto possesso palla, dribbling, funambolismi, ricerca del bello e dell'estetico come spesso fa riuscendoci peraltro meravigliosamente il Barcellona. Questo è calcio moderno e l'Inter è la regina nell'interpretare questo tipo di gioco. Giacomo da Venezia. Sì, pronto? Salve. Buongiorno. Volevo solamente allacciarmi a un discorso di un ascoltatore prima di un intervento. Purtroppo ho perso un pezzo, mi scuso anche se tiro fuori un argomento di cui è stato parlato. Ma volevo solamente riferirmi al fatto che personalmente, a parte tutti le disquisizioni tecnico-tattiche per i quali sono assolutamente d'accordo, l'Inter ha meritato fortissima, però sinceramente ieri sera a me non interessava chi vinceva, perché semplicemente non c'erano grossi italiani in campo, diciamo, molti italiani in campo, anzi neanche uno a parte credo Maserati, se non sbaglio, l'ultimo minuto, sì, che è entrato alla fine. Insomma, questa credo che sia un record di cui è bene anche insomma tenere conto, perché quasi quasi ne aveva più italiani il Bayern Monaco fino all'anno scorso, che ne aveva due che più o meno giocavano, che l'Inter, che può veramente non ha un'identità italiana, di cui perciò il discorso delle bandiere di ogni giocatore del proprio paese, queste cose qui, diciamo che molti non si sono riconosciuti magari in questo come tifosi di altre squadre, voglio dire, in questa vittoria, sì. Proprio perché non l'italiano riteniamo che nell'Inter ci sia ben poco, insomma, ecco. Sì, questo è un ritornello che ritorna, no, molto spesso, che continuiamo a sentire. Io personalmente valuto le squadre di calcio a prescindere dai passaporti dei giocatori. Mi importa anche fino a un certo punto che l'Inter sia una squadra italiana, perché non sono così tanto patriottico. L'Inter è una grande squadra di calcio moderna, che poi per i regolamenti di oggi, del 2010, ci siano argentini, ci siano portoghesi, ci siano olandesi, eccetera, mi importa poco. Io valuto l'Inter come squadra di pallone e secondo me è una grande squadra, a prescindere dal passaporto degli interpreti di questo gioco. Non lo so, sono una mentalità un po' cinica, però questo è il mio pensiero. Filippo Maria Ricci, dalla Spagna, aspettando Mourinho. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Certo, è un discorso questo che può essere raccordato a quello del Barcellona, dove invece la politica è differente. Però nel 2010 non mi sento di fare grandi disquisizioni sulla provenienza dei giocatori. È sport e professionismo questo. Sì, io la penso esattamente come te. Può essere più interessante, può essere più stimolante avere... sì, degli italiani o della gente cresciuta in casa, questo può aggiungere qualcosa, certo, a un progetto, però non è una condizio sine qua non, insomma, sì. Per me, voglio dire, a tanti piace l'Arsenal non è inglesi, sì, sì. Per fare un esempio. Nel Chelsea sì, gli inglesi hanno una parte importante sul campo, ma sono poi numericamente limitati, per cui dipende. Io insomma, anche io la penso come te, non ne farei un dramma. Sarebbe un buon segno, sarebbe importante per la nazionale italiana, sarebbe comodo per la nazionale italiana se l'Inter vincesse tre titoli come ha fatto quest'anno e in rosa avesse avuto 12 giocatori italiani, 6 titolari, certo. Allora forse vincevamo il mondiale, ecco. Forse sì. Questa è l'unica differenza. Abbiamo argentini e brasiliani e il mondiale probabilmente se lo giocheranno loro. Certo. Filippo, tu oggi per la Gazzetta sei andato a spigolare tra le pieghe di questa finale. È un'idea che era venuta anche a me. Ci sono due giocatori e sono Pande e Kivu, che a gennaio mai credo avrebbero pensato di essere in campo per motivi molto diversi ad alzare quella coppa ieri sera. Con Pandev epurato dalla Lazio e messo in castigo, con Kivu che si è spaccato la testa al giorno dell'Epifania a Verona, e ieri sera erano tutte e due in campo e hanno alzato quella coppa. Sì, vabbè, il discorso di Pandev però è un po' demenziale, perché non era stato messo fuori rosa perché non era capace. Insomma, lì si entra nel terreno lotito e sì, lì si può dire qualsiasi cosa, insomma, no? E il caso di Chivo è differente, però c'era già stato magari anche l'esempio di Cech, che fa anche il portiere, quindi forse un mestiere ancora più complicato del suo, ed era tornato anche lui dopo un infortunio comunque altrettanto grave. Sì, ma questa, ieri era pieno di storie, no? Di rivincite, vendette, ritorni. Ieri citavo, Lucio è stato scaricato da Van Gaal in malo modo, non so quanto. Come tutti gli altri brasiliani, peraltro. Leggevo l'altro giorno le dichiarazioni di Giovanni e di Rivaldo, che Rivaldo è stato il più tenero e ha detto: Van Gaal mi fa pena. Invece Giovanni ci ha dato giù un po' più pesante. Snyder, pensare che Snyder è costato 15 milioni, poi magari adesso diventeranno 18 grazie a questa vittoria in Champions, comunque vendere Snyder per 15 milioni in un mercato come quello dell'anno scorso è ovviamente una follia. Come ha detto, una delle frasi più belle, dice: no, io non sono mica Penelope Cruz, a chi gli faceva notare che era stato scartato per motivi di feeling. Questo è un ragazzo che si è vinto due triplette consecutive, ce n'erano tante di storie così. Il Cambiasso non va al mondiale, anche Zanetti, mettiamo che Zanetti magari c'ha qualche anno di troppo, anche se ovviamente nessuno, io lo vedrei benissimo nell'Argentina, che tra l'altro non ha laterali, quindi insomma proprio mi sembra una però energia. Per il discorso che facevi tu prima, quest'anno se c'è un momento in cui pescare in questa squadra è questo il momento, Però vedi, io lì vedo la forza di Mourinho. Lì vedo la capacità dell'allenatore di motivare i giocatori che sono stati più o meno tutti scartati, giocatori chiave. Milito, se non sbaglio, è alla prima Champions League. Sì, no? Ha giocato nel Genoa, a Saragozza, come poteva farlo? Adesso io, per me Milito può essere candidato al pallone d'oro, teoricamente. L'ha detto anche Lippi. Oggi. Perché no? Perché no? Però è uno che arriva a 31 anni a giocare la prima Champions League. Allora è lì che Mourinho, secondo me, si vede la sua capacità, le sue grandi doti, le sue grandi qualità. Ascolta, ma tu che sei così abituato al calcio edonistico di Real Madrid e Barcellona, a chi dice, abbiamo avuto un esempio pochi istanti fa, insomma, un ascoltatore, a chi dice: questa Inter in fondo gioca male. Io non sono così d'accordo. Sì, io mi sono stufato. Ieri sera, non ti dico, guarda, scendo giù, io comunque da ragazzino ero dell'Inter. Adesso ovviamente più all'estero tanti anni lo seguo meno, non mi interessa, però è chiaro che di fronte a partire così senti qualcosa dentro, no? Io non ho difficoltà. E allora scendo giù nella pancia del Bernabeu, lì zona mista, così, e tutti sti colleghi un po' inglesi, un po' spagnoli, però non ha giocato bene, dico ma fatela finita, io dico solo, veramente, ma fatela finita, cosa vuol dire giocare bene? L'Inter ha fatto una partita perfetta per me tatticamente, secondo me il vero capolavoro di quest'Inter è stata Barcellona, una partita che non è stata il massimo dell'estetica, ma no, ma no, però cos'è l'estetica a un certo punto? Io vengo, non è che noi poi vediamo tante squadre vincere continuamente 5-0, 6-0 imporsi, alla fine il Real Madrid cosa vuole? Vuole vincere. No? E quindi si prendono Mourinho, dopo che l'anno scorso Florentino Perez aveva detto: no, ma noi cerchiamo un altro calcio, abbiamo un'altra filosofia, un altro progetto. Il Barcellona è un oso, è un caso a sé, non è neanche una squadra spagnola, una squadra catalana, crescono tutti lì, hanno un orgoglio differente, entrano in quella squadra a 11 anni a giocare in un certo modo e arrivano a 20, se arrivano in prima squadra e giocano allo stesso modo, è un modello troppo differente dagli altri. Poi abbiamo altri esempi di bel calcio, però l'Inter ha fatto anche delle bellissime partite. Certo, e quella di ieri sera per me è una partita che io incornicerei, no? C'è una grande parata che ti sa, però se Snyder segna il secondo gol nel primo tempo, no? Nelle due palle gol create dall'Inter, no? Una è un gol, l'altra è un quasi gol. Se segna quel gol, vuol dire, è già finita lì la partita. E comunque il Bayern ha avuto quella fiammata. Poi uno c'ha un buon portiere, o forse il miglior portiere del mondo, ti dà una mano perché deve fare quello di mestiere. E poi, però la partita, Van Gaal che doveva fare chissà cosa, e non c'è riuscito, insomma, non, per esempio non ha saputo far fronte comunque all'assenza di Ribéry. No, ma poi se giocare bene è fare ore e ore di possesso palla come ha fatto ieri il Bayern, ma come ha fatto anche lo stesso Barcellona contro l'Inter, ore e ore di possesso palla a ritmi lenti o lentissimi, se vogliamo dire che quello, cioè il palleggio insistito è calcio esteticamente apprezzabile, allora vale tutto. Filippo, io vorrei rispondere con te al prossimo ascoltatore che ti chiama in causa, si chiama Sergio e telefona da Padova. Salve Sergio. Sì, salve, buonasera. Due cose semplicissime. Una, anch'io non sono d'accordo sui giudizi del calcio dell'Inter, di come gioca, perché tutto dipende anche spesso dai giocatori che si hanno propria rosa. Ma certo. Se avessimo Messi o avevamo Kakà, penso che avremmo espresso un altro tipo di gioco. Secondo, Guardiola. Io ho dei dubbi sinceramente su Guardiola, perché è un allenatore abituato a giocare con molto possesso palla, il dribbling. L'Inter, proprio perché ha giocatori diversi, hanno una natura completamente diversa, e Mourinho è stato grandissimo a capirlo in questo e li ha fatti esprimere al meglio. Quindi secondo me forse la miglior allenatore che può fare ancora continuare questa squadra a esprimersi come sa giocare potrebbe essere Capello. Guardiola non lo vedo, non per questo tipo di gioco che esprime attualmente l'Inter. Secondo, e con Eto'o come la mettiamo? Non lo so, risponde Filippo Maria Ricci anche su queste su questa idea Guardiola. No, vabbè, ma non, Guardiola non se ne andrà mai dal Barcellona, cioè non mi sembra, non lo so, non per ora, voglio dire. Nemmeno ora che cambia il presidente? Ma no. Cioè Rosell, che è il candidato che molto probabilmente vincerà, ha già detto che lui lo terrebbe per i suoi 6 anni di presidenza. Insomma, non penso che ci sia questo scenario. Guardiola sarà, allora, per il momento Guardiola ha fatto 3 campionati e li ha vinti tutti e 3, quindi insomma, no? Questo mi sembra già un dato importante. Sì. E li ha vinti col Barcellona, prima col Barcellona diciamo minore in quarta serie e poi 2 in Liga col Barcellona vero. È chiaro che finché noi diciamo non vedremo Guardiola allenare un'altra squadra, non potremo dire se Guardiola è solo un allenatore stratosferico per il Barcellona o lo è diciamo a 360 gradi. Per me è molto bravo. Mourinho, perché in questo momento ha un vantaggio? Perché Mourinho ha vinto col Porto, ha vinto col Chelsea e ha vinto con l'Inter, e adesso proverà a farlo con Real Madrid, e sono realtà tutte molto molto diverse tra loro, e lo ha fatto con giocatori diversi, giocatori che anche al Chelsea non erano grandissimi giocatori prima che arrivasse lui a trasformarli in grandi giocatori. E con l'Inter, appunto, secondo me l'esempio di Milito è uno che, cioè, qua in Spagna non hanno mai voluto. Allora, o qui in Spagna sono tutti miopi, oppure Mourinho ha tirato fuori da Milito qualcosina in più. E questa è la grande forza. Per il momento, sì, insomma, adesso io non so per la successione. Capello lo conosciamo. Capello è un altro che ha vinto 9 scudetti di 15 campionati, considerando anche quelli che poi gli hanno tolto. Poi dopo non entriamo nella polemica. Per cui è un vincente. Io, anche secondo me, è la persona giusta per continuare questo tipo di progetto dell'Inter. Sì. Perché, e qui chiudo, a me c'è un po' l'unico rammarico è che, come quando dopo tanti anni di attesa l'Inter vinse lo scudetto con Trapattoni, non si aprì nessun ciclo, si rischia adesso con l'addio di Mourinho di chiudere prematuramente anche questo ciclo. E questo il rischio c'è, perché io credo che sono stati soltanto di cambiare un allenatore, ma di voltare pagine in maniera completa, e vediamo che cosa verrà scritto sulla nuova pagina bianca, insomma. Grazie Filippo, ci sentiamo in settimana, perché Mourinho firma martedì o mercoledì, no? Sì, adesso sì, manca proprio solo il giorno, domani. Intanto, cioè, anche, vabbè, io, permettimi l'ultima cosa, a me è sembrato molto brutto, diciamo, comunque l'allenatore della Madrid è ancora Pellegrini, allora potevano mandarlo via magari sabato o venerdì, non lo so, per evitare, adesso si parla appunto della sua panchina già stata occupata, ma lui teoricamente non è stato sarebbe ancora trattato, insomma, non è sembrato molto carino, no, comunque domani inelegante. Lo manderanno via. Inelegante. Esatto, domani lo manderanno via e poi dopo sì, tra martedì, mercoledì o quello che è, insomma, però prendiamo solo di aspettare. Prendiamo appuntamento all'uopo con te, insomma, nei prossimi giorni. Va bene. Perfetto, grazie problemi. Filippo. Grazie a Filippo Maria Ricci. Ci fermiamo un attimo, poi di nuovo qui. Radio 24 presenta Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Un inglese colto, elegante e terribilmente irrequieto intervista una donna che ha fatto dell'irrequietezza il motore della sua carriera. Da questo incontro l'uomo inizia il suo percorso di nomadismo, che lo porterà a diventare il più grande scrittore di viaggi contemporaneo. Bruce Chatwin ed Eileen Gray. Domani, a Destini Incrociati. Destini Incrociati. Tutti i giorni alle 15 e alle 23 su Radio 24. Salve, come posso aiutarla? Ave, so Giulio Cesare, imperatore. Oggi, 15 agosto, sferriamo l'attacco decisivo alla Gallia. Però c'è un problema. Dica, dottor Cesare. Siamo quattro gatti. È Ferragosto, sono tutti in ferie. Ma c'è una sua mail dell'attacco? A sistema non vedo nulla. Non perdere tempo. Passa a DocFlow. DocFlow, la soluzione che ottimizza i processi di comunicazione della tua azienda. Scopri come su docflow.com. DocFlow, soluzioni agili per imprese agili. Mario, che fai vestito da Cesare? Giro a fiction Cesare, Cleopatra e la Sfinge. Che c'entra la Sfinge? Che ne so, sarà un enigma. Nessun enigma con PosteMobile. Scopri subito le promozioni dedicate a chi porta il suo vecchio numero di cellulare in PosteMobile. Ammazza e convenienza! Qui sono le tariffe che fanno la storia. Chiedi PosteMobile in tutti gli uffici postali e per maggiori informazioni chiama il 160 o vai su postemobile.it. Poste Italiane. Uno dei grandi misteri dell'antichità è legato al culto di Icaro. I suoi seguaci, detti Icarini, lo veneravano come un dio e nei loro riti ne rievocavano il famoso volo. In queste cerimonie si lanciavano da una rupe con grandi ali di terracotta, di cui purtroppo non ci è arrivato integro neanche un esemplare. Morale? Meglio stare coi piedi per terra. Trazione integrale motore boxer, tecnologia esclusiva Subaru. Nuova Subaru Legacy, un'autentica calamita da 26.400 euro. Oggi anche in versione berlina, negli showroom Subaru anche sabato. Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene e compriamoci Sky Gold Box. Sky Gold Box a 49 euro. Puoi vedere tutto Sky fino a fine agosto, mondiali FIFA in HD inclusi. Chiama 02 70 70. Info su sky.it/goldbox. Dottor Bocchia! Eccolo! Pilone! Dottoressa Frangi! Sì! Tre quarti ala! Ingegnere Montali! È qui! È estremo! Il futuro ha bisogno di più anima. Per questo i migliori consulenti, le migliori banche e reti di promotori finanziari propongono i fondi comuni di Anima e ti offrono l'assistenza e la consulenza necessarie. Il valore a portata di mano. Anima. Insieme per il valore. Pronti a dare l'anima? Anima! Anima! Anima! Prima dell'adesione leggere il prospetto. Disponibile presso la sede della società, i distributori e sul sito animasgr.it. Suona l'allarme di casa. Corro subito a vedere. Ti accompagno. Che sarà successo? Allarme, furto, zona ingresso. No, suona anche il tuo allarme. Dobbiamo correre anche a casa tua. Tranquilla, io ho Combibox e posso controllare dal mio telefonino quello che è successo. Combibox, l'ideatore del primo antifurto GSM, crea sistemi di allarme professionali per controllare casa e ufficio dal telefonino. Vai su combibox.it. Guarda anche tu sul mio telefonino. È Fuffi, il gatto del vicino. A tempo di sport. Sì, cari ascoltatori che scrivete sms, abbiamo ricordato, l'abbiamo già detto varie volte, vi ha ricordato gli episodi arbitrali favorevoli che ha avuto l'Inter in questa marcia verso la Champions League. Abbiamo già detto anche che sono quei dettagli, per dire alla Mourinho, senza i quali, chiamatela fortuna, chiamatela come volete, senza i quali in tornei come questo, mondiali compresi, non si riesce a far strada. Possiamo anche ricordare che se non era per un colpo di fortuna di questo tipo, il Bayern Monaco ieri sera era a guardare la partita al mare insieme all'arbitro Ovrebo, no? E passava la Fiorentina in quel turno. Ma sono tutte cose che fanno parte di questo magnifico torneo che è la Champions League, secondo me. Io tornerei a Madrid, dove c'è Paolo Ghisoni, mio amico di Sky, che ha vissuto una notte speciale, credo. Ciao Paolo. Sì, buona serata. Aggiungo solo una cosa anche a quello che hai detto del Barcellona l'anno scorso. Il Barcellona che ha dominato poi l'Europa e il mondo. Dani Alves, 28 cross, azzeccati 0. al 94esimo ne ha azzeccato uno, poi alla fine rimpallo, palla Iniesta, gol, Chelsea eliminato, Barcellona campione d'Europa. Sì, certo. Tanto per rimanere sul recente. Ma sai, se è impossibile arrivare in fondo e alzare quella coppa senza avere il vento favorevole, no? Senza avere questi piccoli o grandi colpi di fortuna. L'Inter ne ha avuto un altro ieri sera per quel mani in area di Maicon che Webb poteva anche punire senza problemi. Sono tutti quei dettagli che costruiscono la storia di tornei di questo tipo. Vuoi una Champions League, vuoi a maggior ragione un mondiale, io credo. Sì, concordo, insomma, anche per quanto riguarda altre partite c'è stata proprio la spinta che diceva che fosse l'anno giusto per l'Inter. Certo, squadra del comunque, destino. Com'è stata la tua nottata a Madrid? Notte di festa, più che altro insieme ad altri colleghi abbiamo avuto l'avventura poi di incrociare il presidente sulla tarda nottata, diciamo verso le 5, insomma, davanti all'albergo dove lui era, come al solito con grandissima cordialità ha invitato i pochi che erano rimasti a raccogliere dichiarazioni a spendere un breve appuntamento con celebrazione a contorno e niente, molto felice chiaramente con una frase che comunque testimonia il fatto che Mourinho questa decisione l'avesse presa credo a febbraio dopo la partita con la Sampdoria in casa, dopo le manette. Lui ha proprio dato mandato al procuratore di intavolare il discorso con Real Madrid. La frase sibillina uscita è stata: magari poi se ne pentirà come ha fatto Ibrahimovic, perché adesso la dimensione interista obiettivamente è di grande club, insomma la potenzialità economica del Real le conosciamo, quella del Barcellona anche, però l'Inter insomma questa disponibilità economica l'ha sempre avuta, e se poco tempo fa Moratti poteva avere il dubbio che adesso forse dopo tanti soldi spesi fosse magari il momento di passare la mano, credo che l'appetito viene mangiando. Paolo, è per questo che dicevo prima, sono proprio queste dichiarazioni che mi fanno vedere un Moratti diverso, no? Cresciuto anche lui con l'Inter, dicevo prima con Fabio Monti, ora può essere davvero un grande presidente, o non più soltanto un presidente con molti soldi da spendere, perché questa magari poi se ne pentirà, fa il paio con quell'altra, Mourinho piange, magari senso di colpa, insomma mi sembrano aggiungo, dichiarazioni alla Mourinho quasi. Carlo, aggiungo un dato di fatto: Balotelli prima di Inter-Atalanta era titolare, Moratti è andato a prenderselo la sera dopo tutto quello che è successo a Inter-Barcellona e ha detto no, il giocatore diciamo è meglio preservarlo, significa che Balotelli probabilmente andando via Mourinho rimarrà all'Inter, e significa che in quel momento Balotelli è stato valutato come un capitale da preservare. Con Mourinho che in quel momento lo avrebbe mandato sicuramente in campo contro l'Atalanta dopo 9 minuti l'Inter ha sotto 1-0 con il gol di Tiribocchi. Con il secco in mano si fa nulla, però in un clima del genere non credo fosse stato proprio il massimo esprimersi per Balotelli, per tutta la squadra. No, quindi altra dimostrazione di lungimiranza da parte del presidente. Paolo, per chiudere, chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter secondo te? Non so se Moratti alle 5 del mattino ha detto qualcosa, ma se tu dici che è già da febbraio-marzo che si sa almeno all'interno del club che si ha la certezza che Mourinho sta andando via, allora chi sarà l'allenatore dell'Inter? Allora, l'Inter aveva un'opzione con Laurent Blanc fino al 30 aprile che è stata lasciata cadere, c'era la pista Capello, il quale però pare che abbia preso tempo perché vuole presentarsi con il bigliettino da visita del mondiale da spendere, sia in positivo che in negativo, ma credo più che altro ci sia un altro ragionamento da fare. Capello va nelle grandi squadre quando c'è da rifondare. L'Inter in questo momento bene che vada sul modo di esprimersi è posso pareggiare, perché obiettivamente l'Inter ha vinto tutto, quindi scarterei anche l'ipotesi Capello. Rimane fortissima la pista Mihajlovic, perché Sinisa è andato sabato a parlare con la Sampdoria, sono tutti in attesa di una chiamata di Moratti, il clan di Mihajlovic, quindi Marcolin, insomma le persone che c'erano a Catania. Perché? Perché l'accordo con la Sampdoria si poteva fare, però Mihajlovic ha preso ancora tempo perché crede fortemente in questa possibilità, quindi Benitez la vedo molto dura, anche perché Mihajlovic e Marcolin conoscono benissimo l'ambiente interista, magari anche come motivazioni personali, dare qualcosina in più a una squadra che comunque ha vinto tutto. Benitez è un bel punto di domanda, anche perché non si sa quanto possa poi dare la propria impronta, come ha fatto Mourinho, a questa squadra. Insomma, certo. Quindi credo che sia Mihajlovic, anche bisogna... perché la Sampdoria, scusami, chiudo, sì. Di Carlo è quasi fatta. Insomma, si sono resi conto che il tempo di Mihajlovic chiesto non corrisponde con i programmi a Sampdoria, che lo ricordiamo, i preliminari Champions, quindi bisogna chiudere abbastanza rapidamente per poi pianificare proprio il programma stagionale. Moratti ha detto un'altra cosa, sto leggendo dichiarazioni del presidente che dice per avere un altro come Mourinho bisogna prendere tre persone, tre allenatori in uno, visto che non è possibile farlo. Non vogliamo prendere uno che imiti Mourinho, questo ha detto Moratti, e mi sembra una cosa di estremo buon senso, questo, che non bisogna prendere la brutta copia di... Girava anche ieri a Madrid questa voce, proprio sì. Alcuni insomma vicini al presidente dicevano proprio questa cosa, è inutile cercare di pareggiare quello che ha fatto Mourinho, o se non altro cercare un allenatore che abbia le sue caratteristiche, perché all'Inter insomma lui ha fatto così tanto bene proprio perché insomma a livello societario ha colmato anche delle lacune dal punto di vista organizzativo, quindi credo che sia veramente una figura unica, non solo per l'Inter ma anche per altre società. Chiudo dicendoti una cosa di Madrid: non è che a Madrid siano tutti entusiasti dell'arrivo di Mourinho, perché ha vinto la Champions, però anche ieri sera il discorso difensivismo, lui ha sfruttato al meglio i giocatori che ha per il tipo di gioco chiaramente dell'Inter e anche degli avversari, però qui eravamo ieri sera a cena, molti tifosi madridisti storcono un po' il naso perché si ricordano ancora Capello che vince il campionato, come lo vinse e la famosa pagnolada, insomma a Madrid vogliono la, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca, vogliono vincere divertendosi. E quest'anno mi sa che non si sono divertiti neanche poi tanto, non si sono divertiti neanche poi tanto, comunque contenti loro, contenti tutti, se vogliono tenersi i Pellegrini facciano pure, non mi sembra una grandissima idea, però tant'è, arriverà comunque Mourinho. Grazie Paolo Ghisoni, dunque da Madrid ci fermiamo per il traffico, poi già Salvatore da Bari e Lorenzo da Savona in linea. Pubblicità. Esci dalla crisi, entra in CheBanca. Conto deposito ti dà il 2,50% sulle somme depositate per un anno e hai gli interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 30 giugno 2010. Fogli informativi su chebanca.it. CheBanca, la banca per tutti del gruppo Mediobanca. Scopri i vantaggi di Elementare Citroën. Ti aspettiamo sabato 22 e domenica 23 in tutte le concessionarie Citroën. Vi presenta Strade in diretta. Per un veicolo in fiamme, code di 3 km sull'autosole tra l'allacciamento con la A15 della Cisa e Fidenza in direzione di Milano. Si viaggia momentaneamente su una corsia. Rallentamenti per un incidente sulla A14 Adriatica tra Porto San Giorgio e Grottammare verso Pescara. Altrove aumentano gli spostamenti a causa dei rientri di queste ore dalle località di villeggiatura. In Liguria, sulla A10 in direzione Genova, code a tratti tra Albenga e Spotorno, tra Albisola e Varazze e tra Arenzano e la A26 dei Trafori. Incolonnamenti verso Genova anche sulla A12 a partire da Chiavari. Molti veicoli in viaggio provenendo dai laghi sulla A8 Milano-Varese, con code tra Gallarate e l'allacciamento con la A9 Lainate Chiasso in direzione di Milano, dove si avvertono anche le ripercussioni di un incidente risolto, e lungo la diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest verso la A8. Incolonnamenti alle porte di Roma verso la capitale sulle diramazioni Roma Sud e Roma Nord, code in entrata a Milano per le provenienze da Brescia e da Genova sulla A7 Milano-Genova. Parliamo di lavori, 4 km sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Firenze, tra Vicarello e Lavoria e tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Est. Rallentamenti tra Desenzano e Brescia Est sulla A4 in direzione di Milano. Infine massima prudenza tra Lazio e Abruzzo per i forti temporali in atto che possono ridurre la visibilità. Con questo è tutto, torniamo tra mezz'ora. Tempo di sport. Mauro da Torino, ricordo che nella partita che lei dice fantastica, l'Inter in 90, quella di Barcellona, l'Inter ha passato la metà campo due volte, il bel calcio è un'altra cosa. Io direi che queste sono abbastanza masturbazioni mentali, così come quelle dei tifosi del Real Madrid. Bel calcio che cosa? Bel calcio è anche nel oggi lavorare sui limiti dell'avversario, la capacità di disinnescare un avversario che sembrava irresistibile come il Barcellona. Secondo me bel calcio è anche questo, non ho bisogno dei colpi di tacco di Ronaldinho, no? Salvatore da Bari, buonasera. Buonasera a lei, signor Genta, e grazie della possibilità. Lei. Io partivo proprio da questi presupposti, insomma, il calcio moderno è particolare, è riuscire a cogliere le debolezze dell'avversario e i pregi della propria squadra. L'Inter ha saputo fare questo, complimenti all'Inter perché ha vinto con merito tutto. A me una cosa che affascina, ad esempio, è il finale di stagione di Eto'o. Cioè, mi affascina vedere un giocatore come questo, che è una superstar internazionale, come si diceva prima, nel suo paese è un semidio sportivo, andare a non suonare il violino, come per usare lontane parole dello stesso Eto'o, ma suonare il tamburo facendo il terzino. Questo secondo me è bel calcio, è tutto il lavoro che ci sta dietro. Prego. Questi, di convincere superstar a sacrificio totale. Sport è questo. Io ho una piccola, come dire, da una posizione di privilegio, non faccio tifo per nessuna squadra tranne che per la nazionale. Però ecco, quando con i miei amici discuto di come sono ottenute le vittorie, allora gli dico: guardate che da rivalutare il vecchio Trappattoni, che sapeva fare questo tipo di gioco, lo faceva bene e faceva quello. Mourinho ha saputo fare al massimo, ha saputo trarre il massimo dal gruppo che aveva e non avendo giocolieri ha fatto il sano nostro vecchio tra virgolette catenaccio con d'accordo. Il vecchio contropiede fatto bene, secondo non me non sono d'accordo, non è catenaccio questo difesa fatta bene che usiamo un altro termine, si è potuto difendere alla grande e sapeva poi ripartire alla grande, sì. Termine moderno. Io dico che più che altro l'Inter è una squadra straordinaria nel lavorare sui difetti degli avversari e nell'impedire, perché catenaccio implica, come dicevo prima, una difesa ossessiva della propria porta, compreso il portiere che fa mille parate, no? E quindi costantemente sotto pressione. Io non ho mai visto Julio Cesar sotto pressione, nemmeno con gli avversari che ha dovuto affrontare, dal Chelsea al Barcellona eccetera. Non ricordo assedi alla porta dell'Inter. L'Inter ha avuto una straordinaria organizzazione difensiva, che è una cosa un po' diversa dal fare catenaccio e sparare la palla in tribuna come nell'iconografia classica. Ecco. Lorenzo Savona, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Io volevo semplicemente chiedere un parere, così. Io sono un tifoso doriano riconoscente di tutti i meriti che vanno all'Inter, perché ha fatto una straordinaria stagione, quindi nulla da togliere né a gioco né allenatore. Proprio per l'allenatore, non trova che Del Neri, in quanto motivatore, in quanto persona capace nel suo lavoro, ha fatto, chiaramente in piccolo, con quello che avevamo noi, le stesse cose quasi che ha fatto Mourinho nell'Inter? Perché io da tifoso e da sportivo le posso dire che l'anno scorso andare a vedere la mia squadra era una pietà. Quest'anno ho visto una partita, ma finalmente ho visto una squadra che giocava. Sì, c'è dubbio. Bisogna dare merito a Del Neri, secondo me, perché la Juve secondo me ha fatto l'acquisto più bello di tutta la stagione, prendendoselo come allenatore. È un bravissimo allenatore, Lorenzo, è un bravissimo allenatore, lei ha ragione, non starei a dire ha fatto quello come questo, ha fatto uno straordinario lavoro Del Neri, senza stare a fare confronti con ciò che ha fatto Mourinho. Sono due lavori estremamente ben fatti, no? Sono due capolavori quelli che hanno fatto Del Neri in un modo, Mourinho in un altro molto diverso. Sul fatto della Juventus, non lo so, io credo che allenare un grande club sia un lavoro molto diverso dall'allenare una provinciale, sebbene di lusso, una squadra di comunque della borghesia del calcio come la Sampdoria. Credo siano mestieri diversi. Ad esempio Mourinho è il numero uno nell'allenare un grande club, secondo me, e ci vogliono allenatori con queste caratteristiche, che ripeto, Ancelotti straordinario nell'allenare un grande club, che vuol dire gestire giocatori importanti, gestire contratti importanti, che vuol dire fare un lavoro che, ripeto, è estremamente diverso da quello che si trova a fare allenatore della Sampdoria, del Genoa, della Fiorentina, sono mestieri diversi, quindi io credo che insomma, sulla scelta della Juventus non sono poi così così convinto fino in fondo. Naturalmente spero di sbagliarmi, perché ho grandissima stima di Gigi Del Neri, anche come uomo e come personaggio, pur non conoscendolo bene. Con tutto questo trambusto intorno all'Inter e sull'Inter, caro Mario Poltroneri, oggi non ho visto la corsa di Le Mans. Non hai vista? No, me la sono persa. Comunque è stata una corsa invece importantissima, direi, perché pur essendo solo la terza rispetto alle 19 previste, e si sono avute delle indicazioni abbastanza interessanti, cioè la vittoria di Lorenzo su un Valentino che qualche problema doveva averlo senza dubbio, ma lui stesso ha sminuito il disturbo alla spalla, è una vittoria importante perché è stata ottenuta con una progressione, non come quella precedente con una rimonta nella fase finale, cioè si è avuta la sensazione che Lorenzo sia diventato veramente l'avversario di Valentino nella corsa al titolo quest'anno, è uscito praticamente da questo gioco e potrà puntare solamente a dei risultati parziali, è Stoner che è caduto al secondo giro e che dà la sensazione di non trovarsi più a suo agio allo Ducati, ed è paradossale perché hanno lavorato tanto per mettere in condizione di avere una moto più guidabile, il risultato è che Hayden va fortissimo e Stoner invece va più ad agio. Sì, quindi un po' una psicologia delicata quella di Stoner, probabilmente sente di non essere più competitivo ai massimi livelli con Rossi e con Lorenzo, come tu dici, si è un po' depresso. Ecco, oltretutto bisogna capire che questa uscita è stata al secondo giro per perdita di aderenza della ruota anteriore, e anche l'attuale team manager della Ducati, che è anche il capo collaudatore, cioè Vittoriano Guareschi, ha detto vedremo, perché l'apertura del gas era a 15 gradi, quindi non era in condizioni di dover cadere in quel punto. Comunque, diciamo, campionato che sta diventando veramente molto interessante, c'è da notare poi il podio, cioè il terzo posto di Dovizioso, che ha battuto niente meno che Pedrosa, un risultato anche questo importante perché già si comincia a parlare di passaggi di piloti da una squadra all'altra, e allora in questo contesto è chiaro che Dovizioso può sperare di conservare il posto all'Honda anche se dovesse arrivare un altro pilota fortissimo che potrebbe essere poi lo stesso Stoner. Sì. Quindi diciamo che il campionato è vivace, è interessante, non è noioso come in altre volte, gli avversari sono abbastanza a ridosso del primo gruppo di fortissimi, sì, diciamo dei quattro più forti, e quindi lo spettacolo è conservato. Lo stesso sta succedendo sulla Formula 1, di cui non abbiamo avuto occasione di parlare, e che fa quattro giorni si ripresenta per il settimo Gran Premio in Turchia con un Webber che vuol portare via il posto di numero uno a Vettel. Sì. Questo sarà senza dubbio un altro dei temi interessanti, con Alonso che fa di tutto per essere realmente un grande protagonista. Certo. Speriamo che questa volta non sbagli in prova. No, ma ci divertiamo fino in fondo, secondo me, sia sulle due ruote che sulle quattro, perché è una situazione così incerta, non la ricordo da nessuna delle due parti, ecco, sia nelle moto che nelle macchine. Verissimo. Abbiamo tanti argomenti di cui discutere, caro Mario Poltroneri, nei prossimi weekend. Tanto noi siamo qui. Chi va in vacanza? Perfetto. E chi va in vacanza? Grazie Mario. Ciao a voi, buonasera. Grazie a tutti. Grazie Mario Poltroneri. A proposito di chi va in vacanza, anche se la regular season è finita, dalle 8:30 alle 9 torniamo insieme e parliamo di basket. E sarà così ogni domenica, anche in epoca di mondiali, fino all'assegnazione dello scudetto del basket e quindi a giugno inoltrato. Dunque vi aspetto dalle 8:30 alle 9 per Pallaspicchi. Per il momento grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Ci sentiamo più tardi.